San Filippo Neri Lab inizia il 6 settembre, siamo con la direttrice artistica Mariangela Pitur, William Piana e Rachele Copparoni per Radio Città Fujiko. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Un'edizione quanto mai estesa, con dei fili conduttori molteplici. Quando e come si inizia? Allora, intanto estesa, ma tutte le edizioni sono estese e ogni anno, anzi ogni sei mesi, perché facciamo due programmazioni all'anno, cerchiamo sempre di andare a rintracciare quelle che sono le curiosità e a dare voce e visione a quanto ci gira intorno. Si comincia ormai tradizionalmente con un festival che è Performazioni della Compagnia Stabili Vaganti, che mette insieme i linguaggi e appunto le visioni nazionali e internazionali, perché è una compagnia che gira tutto l'anno, che scambia il suo lavoro con quello dei colleghi un po' di tutte le altre parti del mondo e ce le viene a restituire nel laboratorio, per cui per 15 giorni all'inizio di stagione il San Filippo Neri ha proprio questa funzione di laboratorio vero e proprio e poi di teatro che mostra le restituzioni di quello che si è sperimentato. Ho notato nel programma quest'anno grande spazio alla musica, soprattutto una nuova collaborazione molto interessante con un festival di musica elettronica importantissimo a Bologna, il Robot Festival. Sin dalla sua nascita il San Filippo Neri si è posto come uno spazio di accoglienza. E naturalmente, avendo Bologna tanti festival di pregio, sin dal principio abbiamo ospitato Bologna Festival, Musica Insieme e molti altri, quest'anno quando sono venuti a proporci di fare tappa anche con il Robo Festival, che è un festival molto antico, diciamo così, che ci porterà quindi un pubblico completamente nuovo, perché è un pubblico che è abituato a un ascolto del tutto diverso e immaginiamo anche molto giovanile, non abbiamo potuto far altro che accoglierlo. Altri protagonisti? I protagonisti sono tanti e disparati. A leggere i nomi uno dietro l'altro si fa anche fatica a capire quale sia il fil rouge che li lega. L'ho detto che è bello, è un po' esteso e eterogeneo. Eterogeneo, per cui si va da Antonio Scurati, che con il suo M ha spopolato, che quest'anno non può che essere il protagonista ricorrendo la marcia su Roma. Si va a Teocoli, che ha deciso di scrivere un libro e ci verrà a raccontare l'aneddotica di una vita nei cabaret e nei teatri di tutta Italia. Ma abbiamo anche Federico Rampini, che ci parlerà della Cina, parlerà dell'America ed è un curioso e un esperto di Cina. Ma abbiamo chiamato anche Giada Messetti, il cui podcast Reshow è stato un caso, e parla appunto della Cina contemporanea e lo porterà in scena. Però ci sarà anche Mariangela D'Abraccio, che parlerà degli amori di Marilyn. Ecco, tutta questa eterogeneità trova poi una convergenza in quello che è un po' il diktat di questo spazio, che è quello di seguire la curiosità. Vogliamo dare qualche link utile per seguire appunto questo programma così ricco e vasto? La bussola sono i cicli tematici, ce ne sono alcuni che reiteriamo tutti gli anni, per cui sono i libri di scena. Ricordo che noi amiamo presentare i libri di autori che hanno qualcosa a che fare con la scena, oppure che trattano di qualcosa con la scena, per cui avremo addirittura i Mazzanicchi, non potevamo non accoglierla, in quanto appunto da tutta la vita sta sul palcoscenico. Dei festival ci siamo già detti, poi un'altra bussola è quello della prima della prima, intercettiamo appunto quelli che sono i prodromi di un possibile spettacolo che poi prenderà la sua via. Quest'anno poi abbiamo inserito quello che abbiamo chiamato scena mossa, sono tre momenti di spettacolo danza e avremo ad esempio Marigia Maggipinto, che è la storica danzatrice del Tanztheater di Pina Bausch, ma avremo anche The Crew, quartetto di mimi ucraini, e poi avremo, cosa che ci piace sempre ospitare quando ci riusciamo, uno spettacolo site specific, quindi pensato proprio per San Filippo Neri del coreografo Fabrizio Favale, tra le tante cose. Non manca anche il jazz con la jam session di Pagnozzi. Pagnozzi che si è unito insieme a Marco Cavicchioli, partendo dalle suggestioni della Beat Generation, perché quest'anno ricorre l'anniversario di Jack Kerouac, e in tre appuntamenti tra musica e parole appunto ci restituiranno quella che abbiamo voluto chiamare una jam session tra parola e musica. Musica, letteratura, teatro e non solo, quindi incontri e dibattiti. Noi la ringraziamo tanto e le auguriamo una buona rassegna. Io ringrazio voi, vi aspetto.